Sindaci, vedete un po' voi, io mi rendo conto che non avete vita facile, però mettetevi la mano sul fuoco, sì, sul fuoco, sul cuore, ma sul fuoco non ce la metto, che ve la mettiate. Tu l'estratto conto del telepass non Non l'hai lo mai visto? guardo perché è meglio, no? Occhio non vede, cuore Cuore non non duole, ma duole. carta canta. Io sono di Castelfidardo, Bravo, provincia di bravissimo. Ancona, dove si fanno le fisarmoniche ancora. Perché secondo lei io, Maurizio, di dove sono? Lei, sì, provincia di Ancona. No, ma sono di Castelfidardo pure io, l'ho detto mille volte, si era perso. Domani non ci sarò io, ma ci sarà da sola Nicoletta Carbone, quindi mi raccomando, coccolatemela tanto. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Concentrazione, ritmo e vitalità. E attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Attenzione, prestate orecchio a quanto ascolterete tra poco, poi concentratevi, spremete come si dice le meningi e il ritmo quando vi si accende la lampadina, iniziate subito a chiamare il nostro numero verde 800 24 00 24, fidatevi di me. Quanti canguri ci sono in Italia? Pensaci e chiamaci. Che distanza c'è tra Milano e Chicago? Pensaci e chiamaci. C'è un grande movimento in questo momento nella nostra scatola cranica. Ascoltare e cercare di risolvere il compito, i compiti che ci sono stati assegnati dai quiz che abbiamo appena sentito, accende infatti una miriade di circuiti fitti e ingarbugliati. I nostri neuroni sono al lavoro, si stanno allenando, si tengono in forma, sono proprio loro i protagonisti di un grande evento di cui vi voglio parlare in anteprima, in modo di darvi il tempo di organizzarvi per approfittare e quindi partecipare. Il 10 marzo apre la Settimana Mondiale del Cervello, ci sono tantissime iniziative, conferenze, dibattiti in tutta Italia, c'è anche un sito che raccoglie tutti gli appuntamenti, www.neuro.it. Questa è un'occasione da non perdere per conoscere più da vicino questo organo straordinario e anche per imparare, perché no, a valutare il suo stato di benessere, capire le cose che lo aiutano a mantenersi in forma e soprattutto individuare anche quello che non gli piace, lo danneggia. Oggi in linea con noi abbiamo il professor Giancarlo Comi. Buongiorno professore. Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Bentornato, professore di neurologia all'Università Vita Salute del San Raffaele e direttore del Dipartimento Neurologico all'Istituto Scientifico Università San Raffaele di Milano. Qua in studio abbiamo con noi la dottoressa Letizia Liocani, ricercatore all'Istituto di Neurologia Sperimentale al San Raffaele. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Professore, le neuroscienze hanno fatto dei passi avanti nella conoscenza di questo organo che, diciamo la verità, tutti noi teniamo in grande considerazione, dato che sappiamo bene che ci tiene in pugno. La vita media si è allungata, ma se il cervello non funziona bene, insomma, la vita diventa molto difficile, quasi, no? Non vorremmo viverla. Beh, sì, devo dire che proprio l'allungamento della vita ci ha forse ancora più rivelato l'importanza e la preziosità di questo organo, perché ovviamente il nostro cervello invecchia come le nostre gambe, così come per noi diventa un po' più difficile salire di corsa una scala a 70 anni, anche salire di corsa una impresa di tipo lavorativa cognitiva diventa un po' problematico. Questo quindi ci sta portando a tutta una serie di studi per capire meglio, no, da una parte come funziona il cervello e dall'altra che cosa fare per ottimizzarne il funzionamento. Basti pensare che sia il governo americano sia la comunità europea hanno lanciato due programmi giganteschi con investimenti veramente incredibili, billion dollars proprio, per capire meglio il funzionamento del cervello e quindi riuscire in qualche modo ad entrare nella misteriosità della nostra essenza, del nostro essere proprio. Professor Comi, ma che cosa sappiamo noi di nuovo rispetto al cervello. Ci sono tanti luoghi comuni, leggende metropolitane che sono state confutate dalla ricerca e altre cose che noi pensavamo proprio suggerite dal buon senso che sono state invece confermate. Ci fa un po' il punto della situazione? Ovviamente dovremmo impiegare ore per dire tutto ciò di nuovo che si è sviluppato, perché è stato veramente un torrente in piena quello che ha caratterizzato lo sviluppo delle neuroscienze negli ultimi anni. Questo in particolare grazie all'avvento della risonanza magnetica, questa macchina magica che guarda dentro la testa e che non solo vede come è formato, come è organizzato, strutturato il cervello, ma oggi vede anche quali sono le diverse zone che sono in azione quando noi compiamo certi ragionamenti. Quindi per la prima volta, al di là di ogni teoria, proprio nella realtà visualizziamo il cervello al lavoro, e questo, come è facile capire, ha sfatato alcune conoscenze, alcune acquisizioni del passato e ne ha proposte molte di nuovo. Forse, se volessimo riassumere la scoperta più grande è quasi banale, ma in realtà porta con sé una serie di conseguenze enormi, sì. Ed è il fatto che il cervello ha una sua riserva cognitiva. Cosa vuol dire? Vuol dire che, così come noi nella vita cerchiamo di costruirci il nostro gruzzoletto in banca, visto che si parla di cuore di denari, bravo, vede professore, com'è carino, sì. Dobbiamo costruire lo stesso gruzzoletto anche per quanto riguarda le nostre capacità cognitive, perché il nostro cervello, essendo estremamente plastico, può sviluppare queste capacità, ed è quello che avviene nella fase dell'apprendimento, deve poterle conservare, e qui entra in gioco la memoria, ma deve essere pronto anche continuamente a rinforzarle. Come facciamo, come costruiamo questa riserva cognitiva? Arricchendo la nostra vita, questo è proprio semplicissimo. Dobbiamo muoverci, perché l'attività fisica produce delle sostanze del cervello che facilitano l'apprendimento e la funzionalità della mente. Dobbiamo andare a teatro, andare al cinema, leggere, sentire buona musica, perché tutto questo è un balsamo per il nostro cervello, è come una specie di massaggiatore dentro la nostra scatola cranica che accarezza le nostre circonvoluzioni cerebrali e le fa funzionare meglio. Questo è veramente fondamentale. Basti pensare che quando il cervello comincia a venire meno nelle sue capacità, magari perché si ammala, come avviene nella malattia di Alzheimer, la malattia evolve in modo decisamente più lento in chi nella vita ha messo via un bel gruzzoletto, evolve in modo molto più rapido in chi ha molto speso e poco accumulato. Quindi questo è una conoscenza nuova, credo, di enorme interesse. Come dire, attenzione, perché ciò che fai tutti i giorni in qualche modo determinerà anche la qualità della fase avanzata della tua vita. Professor Comi, tra poco le chiederemo di aiutarci a scoprire i segnali che il nostro cervello ci manda per dirci che sta bene, che è in forma, che porta bene i suoi anni. Ma intanto ci sono già gli ascoltatori che stanno chiamando il nostro numero verde 800 24 00 24, e saluto subito Sergio che ci chiama da Treviso. Buongiorno Sergio, benvenuto. Sì, grazie, buongiorno. Vada Sergio. Niente, volevo sapere, io ho 62 anni, non lavoro più da 8, e ovviamente da quando questo succede la memoria, specialmente quella recente, va nel dimenticatoio. Quando è patologia e quando è fisiologica la cosa? Mi devo preoccupare molto, poco o per nulla? Grazie. Professor Comi. Direi che ciò che chiede il nostro gentile ascoltatore è una domanda che ci poniamo tutti quando superiamo una certa età, perché evidentemente, così come le nostre gambe rallentano, anche la nostra capacità intellettuale in qualche modo rallenta. Un rallentamento che è più sensibile per quanto riguarda la memoria, perché in qualche modo la memoria serve tante altre funzioni del cervello, è come nel computer: se ci mancano i dati messi via nel computer, difficile fare poi delle operazioni. E ovviamente questo rallentamento della memoria, ripeto, è molto normale che avvenga, e di solito è del tutto compensato da un miglioramento delle nostre capacità strategiche che acquisiamo con l'età. Alcune dimenticanze sono del tutto normali, quindi proprio assolutamente normali, e più noi invecchiamo più queste dimenticanze si faranno sentire. Quando invece la dimenticanza non è più un evento sporadico, ma diventa chiara incapacità nel fissare nuove conoscenze, cioè io non riesco neppure a ricordare che cosa ho mangiato mezz'ora fa, non riesco a ricordare neanche dove ho messo la macchina che ho posteggiato mezzo minuto fa, non un'ora fa, allora ovviamente vuol dire che questo processo va oltre i limiti logici e accettabili. È sempre un criterio di quantità, cioè di entità di problema. Di solito però io dico che c'è una legge che vale sempre: quando una persona ha una forte percezione di avere una diminuita capacità mnemonica, di solito vuol dire che in realtà non dovrebbe preoccuparsi, perché chi veramente perde la capacità di memoria in senso patologico, di solito associato a questo, ha una diminuzione dell'insight, cioè della conoscenza, no? Quindi nel momento in cui non ho mai visto un Alzheimer che viene a lamentarsi che non ha memoria. Chi si lamenta non ha. Buongiorno, si può prendere? Buongiorno. Sì, ma tu sei Nicola? La ragazza di Stromboli. La ragazza di Stromboli ha un nome. Ah sì, certo. Aspetta, non me lo dire. Marcella. No, Mirella. Grazie a Dio non mi ha riconosciuto. Ci ho fatto Chicago-New York insieme 5 anni fa ed è stata la notte più lunga della mia vita. Perché mai? Ci ha provato con me e quando gli ho detto di no, dato che stava con una mia amica, oddio, non mi ricordo il suo nome. Sono gocce di memoria. Professor Comi, ci sono però tanti tipi di memoria. Beh, sì, ci sono quella, no, nel breve, quella recente, quella del lungo periodo, la memoria fotografica. Qual è la memoria che noi possiamo perdere più facilmente? Dunque, innanzitutto noi tendiamo a ricordare meglio gli eventi passati, e questo succede perché ogni volta che noi rinverdiamo un ricordo lo consolidiamo, quindi è chiaro che per eventi passati noi li abbiamo di solito richiamati più volte, quindi li abbiamo consolidati meglio, mentre gli eventi più recenti che hanno avuto meno questo processo di consolidamento sono i primi a sparire. Quindi quando noi iniziamo a perdere questa capacità, iniziamo soprattutto dagli eventi più recenti. Questa è la memoria intesa come capacità di rievocare degli avvenimenti che ci sono capitati. La memoria poi ha un altro aspetto, che è quella della capacità di immagazzinare nuove informazioni. Ora, ci sono delle condizioni anormali in cui uno perde l'uno o l'altra capacità, altre in cui le perde tutte e due. È chiaro che ad esempio una malattia come l'Alzheimer viene fortemente compromessa questa capacità di mettere via nuove informazioni, e quindi io non riesco proprio a ricordare che cosa mi è stato detto 2 minuti fa da mia moglie, non riesco assolutamente ad avere memoria di quello che mi è stato detto 10 minuti prima dal portiere che mi indicava la stanza in cui dovevo andare e così via. Mentre ricordo benissimo che nel 1962, il 27 di gennaio, ero stato a una mostra che mi era molto piaciuta. Cioè, voglio dire, certo, questo è proprio l'elemento classico di questo tipo di situazione. Poi ci sono i deficit di memoria, quelli che si chiamano lacunari, cioè i buchi di memoria, no? Cioè la situazione in cui uno dimentica solo un pezzetto della propria storia. Questo succede tipicamente ad esempio quando uno batte la testa, quando uno ha un trauma cranico di una certa entità, ricorda tutto prima dell'evento, ricorda tutto dopo un certo tempo dell'evento, ma non ricorda nulla intorno all'evento, e questa estensione può essere decisamente molto variabile. Ovviamente poi, come lei ha detto, ci sono sostanzialmente 2 tipi principali di memoria, e forse noi non ce ne rendiamo conto. Una è quella che noi tutti chiamiamo memoria, no? Sì. Si chiama anche esplicita, cioè quella della memoria di eventi, di fatti. Ma c'è anche una memoria che noi chiamiamo implicita, che è il modo in cui il cervello impara a lavorare. Banalissimo, io imparo a camminare, ma non è che io penso che quello sia un fatto di memoria, in realtà lo è, perché devo mettere insieme una serie di atti, certo, per poter stare in piedi e per poter andare avanti o indietro, di lato, quello che sia. Quindi noi abbiamo anche una memoria che è la memoria di servizio, no? Cioè quella che istruisce il cervello su come compiere le diverse azioni, a cui noi non abbiamo neanche accesso, non possiamo neanche capire se quella ci funziona bene o male, se non dalla sua applicazione. E questo è un aspetto veramente molto interessante. Importante. Professor Comi, intanto io ricordo agli ascoltatori il nostro numero verde 800 24 00 24. Vi ricordo che in apertura abbiamo mandato due stimoli, due specie di test. Provate a rispondere quanti canguri ci sono in Italia e che distanza c'è tra Milano e Chicago. Nel corso infatti di questa trasmissione, insieme al professor Comi e alla professoressa e alla dottoressa Letizia Leo Cani, giocheremo a stimolare un po' il nostro cervello e dalle vostre risposte i nostri esperti vi daranno delle indicazioni. Parliamo di funzioni cognitive, parliamo quindi di memoria, parleremo quindi naturalmente di concentrazione e della capacità di apprendere cose nuove, ma sappiamo che il cervello non serve solo a pensare, ma governa una serie di funzioni. Accenneremo anche ai problemi di movimento e di linguaggio. 800 24 00 24. Professore, intanto lei ci aveva promesso di aiutarci un po' a giocare con il nostro cervello, a far fare un po' di festa ai nostri neuroni. Quale altro stimolo può darci? Beh, insomma, facciamo così, io adesso vi dico quattro parole, poi ci ritorniamo più avanti. Le parole sono automobile, leopardo, cucina, anello. È interessante quello che lei mi dice, perché ovviamente noi quando dobbiamo valutare una condizione, lo stato di una cognitivo di una persona, facciamo proprio questo, facciamo una serie di test che si chiamano test neuropsicologici, che vanno ad esplorare le diverse caratteristiche di funzionalità del cervello, perché così come non abbiamo un'unica intelligenza, non abbiamo un'unica funzione cognitiva, in realtà il nostro cervello è un insieme armonioso di tante diverse funzioni, capacità strategiche, capacità esecutive, capacità di memoria, capacità di concentrazione e così via. Quindi un buon funzionamento del cervello richiede che tutte queste funzioni operino, funzionino, siano attive in modo adeguato. E quindi noi, come facciamo quando andiamo dal nostro meccanico a controllare lo stato della nostra vettura, sottoponiamo queste diverse sezioni a dei test specifici per avere un quadro completo della funzionalità del nostro cervello. Andiamo a sentire Maria Cristina, ci chiama da Torino, 800 24 00 24. Buongiorno Maria Cristina, buongiorno, benvenuta. Complimenti per la trasmissione, bellissima la sintesi del professor Comi, magnifica, mi ha anticipato la settimana del cervello che comincia qua a Torino anche da lunedì. Partecipiamo, andiamo a vedere tutte le iniziative sul sito e diamo modo al nostro cervello di riposarsi ma anche di allenarsi. Sì. Certo, io volevo domandare questo, io applico queste cose, in che misura attività fisica combinata con attività intellettiva, lettura principalmente, sì, contribuiscono al mantenimento del cervello giovane? Professor Comi, lei ci ha parlato di riserva cognitiva e insomma noi dobbiamo, come cerchiamo di mettere da parte un gruzzoletto per la vecchiaia, dovremmo alimentare questa riserva cognitiva del nostro cervello perché ci accompagni sempre giovane anche quando noi siamo un po' anziani. Beh, guardi, stiamo entrando quasi in primavera, dico quasi perché questi giorni finalmente ci ridanno un po' di speranza di cambiamento positivo del tempo. Cosa succede? Quello che succede è che i vari rami delle piante emettono delle gemme e da qui poi nascono queste foglioline. Le cellule cerebrali sono in qualche modo simili a delle piante perché hanno delle arborizzazioni, cioè hanno tante estroflessioni che servono per entrare in contatto con le altre cellule. Quello che succede quando noi andiamo a vedere un ottimo film o partecipiamo a un incontro, un dibattito interessante, è che noi emettiamo queste gemme e quindi potenziamo le nostre possibilità di collegamento. La seconda grande scoperta, diciamo, degli ultimi tempi, non che non la si sapesse già prima, ma è stato definito in modo molto più chiaro, sì, è che noi diventiamo più bravi, tra virgolette, in tutti gli esercizi, anche in quelli motori, stabilendo miglior contatti tra una cellula e l'altra. Il cervello è interconnessione, è un paradigma della vita, cioè è un paradigma, una società buona, una società molto interconnessa, e chiaramente la efficienza del cervello è proprio legato alla entità di queste interconnessioni. È chiaro che se noi ne stabiliamo molte, sì, possiamo permetterci di perderne una certa quantità senza andare incontro a una defaillance della funzione. Questo è quello che succede con l'allenamento. Curando questi mali, gli uomini e le donne sono uguali. Cremonini sono uguali, ma donne e uomini a noi sembrano diversi nel modo di pensare, di agire, di prendere decisioni, tanto che si dice, c'è anche il titolo di un libro famoso, gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere. Abbiamo, per così dire, dottoressa Leocani, cervelli diversi. Tanto che il cervello dell'uomo sappiamo che è un po' più grande, quello della donna un po' più piccolo e pesa un po' di meno, ma insomma non è un problema di peso, di dimensioni, c'è dell'altro. Beh, sicuramente no, già dall'Ottocento si era notato che in media il cervello dell'uomo è più grande di quello della donna e si era concluso molto frettolosamente che l'uomo è più intelligente. Questa differenza è un po' grossolana, anche perché è tutto in proporzione alle dimensioni del corpo. Eh sì, certo. Ma anche tanti studi che poi hanno confrontato anche con metodi sofisticati l'anatomia delle diverse regioni del cervello negli uomini e nelle donne, poi non sono stati confermati quando poi le indagini si sono estese a migliaia di persone. E certo, sono andate un pochino più nel dettaglio, non voglio esatto. essere di parte, ma... Beh, è giusto essere di parte in queste situazioni, anche perché questo è un argomento che coinvolge tutti. Certo. Diciamo che quando poi si va a verificare sulle migliaia di persone, si vede che poi di fatto questa differenza non è così netta, anche perché la differenza tra uomo e donna, anche proprio l'essere uomo e donna, è un continuum. Sì. E dunque anche non è solo la genetica che influenza le nostre differenze, ma pensiamo alle nostre attività quotidiane. La plasticità si verifica fin da quando ci sviluppiamo, prima di nascere. E pensiamo ai giochi che abbiamo fatto da piccoli. Questo influenza il nostro modo poi di agire, la nostra aggressività, la nostra possibilità di esprimerci in modo diverso. Persino il testosterone al quale siamo stati esposti prima, fin da prima della nascita, influenza lo sviluppo del cervello e poi i nostri comportamenti, addirittura la nostra anatomia. Ecco, quindi non possiamo più fare questa distinzione un po' grossolana tra cervello maschile e cervello femminile. Anche il testosterone ci mette lo zampino un po' nel funzionamento sì. del nostro cervello. C'è un modo molto semplice per capire quanto testosterone ci ha dato la mamma, la nostra mamma, quando eravamo nella pancia. Ce ne ha dato troppo, troppo poco, è stata generosa. Ci fermiamo qui perché tra poco la dottoressa Leocani ci racconta come fare a capirlo, perché è tempo di andare a sentire i mercati. Cuore e denari. Quanti canguri ci sono in Italia? Pensaci e chiamaci. Che distanza c'è tra Milano e Chicago? Pensaci e chiamaci. Siamo tornati, 800 24 00 24, restate molto concentrati, rispondete a queste domande. Per i canguri non basta dire pochi o tanti, bisogna andare anche un po' a pensare un numero, vero professor Comi? In modo che bisogna spendersi. Bisogna spendersi e insieme alla dottoressa Leocani eravamo rimasti sul più bello. Attenzione, anche il testosterone, che tra l'altro produciamo anche noi donne, può influenzare il lavoro del cervello. E siamo stati esposti durante la gravidanza a tanto testosterone? La nostra mamma è stata generosa, poco generosa, è stata assolutamente equilibrata? Guardiamoci l'anulare. Dottoressa Leocani, le passo la parola. Intanto, sì, intanto io sono pronta. Sì, in realtà è il rapporto tra la lunghezza dell'indice e la lunghezza dell'anulare, che in tutti noi si può fare facilmente nelle ricerche, addirittura mettono la mano sulla fotocopiatrice e misurano così banalmente. E già questo rapporto tra indice e anulare inizia a venire determinato fino dalla gravidanza. Infatti già dalla ottava settimana il feto maschio inizia a avere uno sviluppo testicolare, a produrre piccolissime quantità di testosterone, e la diversa quantità di testosterone influenza lo sviluppo delle dita e dunque crea un marchio che poi si porterà avanti e per tutta la vita potrà darci questa idea. Quindi, di quanto occhio, siamo stati esposti. Occhio dunque, all'anulare, ma dove, come deve essere? E dunque, l'uomo tende ad avere l'anulare più lungo dell'indice, sì, mentre la donna tende ad averli più simili o avere l'indice più lungo dell'anulare. E questo però ha anche fatto capire che di fatto non c'è un rapporto netto: i maschi hanno tutti l'anulare più lungo dell'indice, le donne hanno tutte l'anulare più corto, e anche in questa banale misura che si vede che non siamo tutti così nettamente distinti, ma ci sono donne che hanno l'anulare più lungo dell'indice e viceversa. Quindi guardiamoci, io ce le ho tutte e due uguali più o meno. Ecco, anulare indice, cosa vuol dire? Bene, è una tipica dimensione, il tipico rapporto che una femmina alfa. 800 24 00 24, misuratevi intanto l'anulare. In linea con noi c'è sempre il professor Comi e tantissime le telefonate dei nostri ascoltatori. Abbiamo Giovanna che ci chiama dalla provincia di Alessandria, Angela da Torino, Roberto da Verona. Anche questo alla dottoressa Liocani potrebbe suggerire: le donne sembra erano più interessate dal cervello rispetto agli uomini, siamo più intelligenti? Non possiamo assolutamente dire questo, anche perché l'intelligenza si può misurare in diversi tipi, ci sono diversi tipi di intelligenza ed entrambi vanno apprezzati, sia quella più analitica, quella più da emisfero sinistro, il cosiddetto cervello da ingegnere, che è più tipicamente considerato quello maschile, rispetto al cervello poeta, che è più il cervello destro, più intuitivo, più sintetico, che è considerato per antonomasia il cervello femminile. Ma da qui a dire che siamo così nettamente distinti, ripeto. Insomma, non mi vuole dare ragione, professor Comi. Nettamente mi preoccupava, perché mi sembra che sia scontato che dovrebbe essere superiore il cervello femminile. Bene. Almeno toglietelo nettamente. Angela da Torino, buongiorno. Sì, buongiorno. Mi sente? Io la sento molto bene. Perfetto, io volevo fare una domanda al professore in merito al discorso di prima. Sì. E personalmente non ho mai avuto traumi particolari nel modo più assoluto, però mi rendo conto che ho degli spazi di memoria, soprattutto diciamo così da bambina fino a 18 anni indicativamente, dove ho un vuoto totale, escluso le persone, per intenderci lo zio strettamente legate a me, non ho ricordi di nulla, di amici, di persone conosciute, di zero. Proprio il buio. Professor Comi. Ma mi verrebbe da dire che probabilmente nulla di quel periodo ha veramente interessato l'ascoltatrice, perché noi ricordiamo ciò che abbiamo messo via, noi sì, possiamo richiamare solo delle tracce che abbiamo messo via, esattamente come facciamo nella nostra biblioteca. Se io un volume non lo metto lì nello scaffale, quando lo andrò a cercare non lo trovo per forza. Quindi la capacità di accumulare con memoria di eventi è strettamente legata alla motivazionalità. La cosa miracolosa del cervello è che le aree del cervello che si accendono quando noi dobbiamo attivare un ricordo sono intimamente legate alle aree delle emozioni, alla sfera affettiva emotiva, e questo succede perché ovviamente il nostro cervello deve fare una sua cernita, se no invaderemo la casa di memorie e non riusciremo più neanche a muoverci di dentro. Occorre selezionare i ricordi, occorre mettere via quelli preziosi e buttare via quelli irrilevanti. Quindi questo processo di selezione è fondamentale per la sanità del nostro cervello, ed è un processo che chiaramente vede, è guidato, vede come suo elemento, come suo direttore d'orchestra proprio la motivazione. Noi ricordiamo benissimo degli eventi fortemente traumatici, sì, qualche volta il nostro cervello cancella selettivamente degli eventi traumatici, quelli cioè troppo dolorosi. Questo bilancio, ovviamente, come sempre, l'eccesso porta poi a delle reazioni, come dire, opposte, ma è chiaro che se noi abbiamo avuto qualcosa di estremamente piacevole tendiamo a ricordarlo con molto più facilità rispetto a ciò che è stato irrilevante. Intanto, quindi è giusto che noi ci offendiamo se una persona non si ricorda di noi, però vuol dire che non le siamo, le siamo proprio indifferenti. Esatto. Intanto non sono rimasti indifferenti invece i nostri ascoltatori alla misurazione dell'anulare e dell'indice, tanti messaggi al 349-238-6666, sia ascoltatori che ascoltatrici mi fanno notare che hanno situazioni diverse nelle due mani, magari nella mano destra hanno l'indice più lungo e nella mano sinistra il contrario. Che cosa significa questa differenza tra le mani? Che il testosterone ha fatto un po' quello che ha voluto, no? Ne hanno preso, è andato più da una mano che dall'altra. Gianluca, che ci chiama da Milano, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Eccoci qua. Io vorrei fare una domanda molto rapida. Sì, ma secondo lei... Anzi, fare i complimenti. Grazie, questi mi piacciono. Ma secondo lei, Gianluca, questa storia dei canguri che ci ha detto il professor Comi, quanti canguri vivono in Italia? Per me direi meno di 10, in qualche zoo probabilmente. Meno di 10. Ok, la teniamo lì, Gianluca. E intanto adesso può fare lei la domanda al professor Comi. La domanda è molto semplice, vuoi sapere se alcuni farmaci, in particolare ovviamente psicofarmaci anche abbastanza comuni come può essere la paroxetina eccetera, possono influenzare poi la comparsa di malattie in modo positivo o negativo in età poi più avanzata? Certo, grazie per la domanda. Professor Comi. Beh, ci sono due effetti degli psicofarmaci in senso lato, quello che ha citato il nostro ascoltatore è uno psicofarmaco, in modo più preciso un farmaco d'azione antidepressiva. Alcuni psicofarmaci, le benzodiazepine, hanno un ruolo negativo sulla memorizzazione, quindi riducono la nostra efficienza di memoria. La paroxetina è un farmaco che ha un'azione in senso lato stimolante, quindi ha una certa capacità di potenziare i nostri collegamenti e le nostre condizioni di funzionalità. Tuttavia, anche qui in medium stat virtus, cioè se noi abbiamo una dose che è eccessiva diventa un effetto paradossalmente opposto. Quindi i farmaci devono essere, gli psicofarmaci in particolare, ovviamente devono essere usati con estrema attenzione perché agiscono su tutti i messaggini che si scambiano le cellule, si chiamano mediatori chimici, no? I pizzini, è ovvio che insomma. I pizzini, brava, e quindi qualche volta li tagliano, li distruggono e quindi le povere cellule rimangono senza informazioni. Semplicemente pensa, prima di sparare pensa. Professor Comi, l'avevamo anticipato, il cervello non ci aiuta solo a pensare, ma governa anche molte funzioni, come ad esempio il linguaggio e il movimento, per citarne alcune, tanto che piccole defiance di questi, chiamiamoli così, distretti, vengono interpretate come possibili segnali di malessere. Io avrei una batteria di domande da sottoporle in modo che lei possa darci, un po' come abbiamo fatto per la memoria, ci faccia capire quella che possiamo considerare una distinzione tra la situazione di normalità è quella che invece ci deve, non dico spaventare, ma un po' far rizzare le orecchie di allerta. Ad esempio, per il linguaggio, tra l'altro noi, dottoressa Leocani, per il linguaggio siamo molto avvantaggiate rispetto agli uomini, no? Beh, abbiamo un linguaggio sicuramente molto più pittoresco, pensiamo solo a come ci dà le indicazioni stradali una donna rispetto a un uomo, nel senso che la donna inizia a fornirci una serie di dettagli sui negozi ai quali dobbiamo iniziare a girare a destra a sinistra, per cui e queste indicazioni per un uomo invece sembrerebbero fuorvianti e fastidiose, invece per una donna sono utilissime perché aiutano a cogliere quei dettagli che invece compensano una, diciamo, un limite, se vogliamo trovarlo, nel cervello femminile rispetto a quello maschile, che è nell'orientamento, nello spazio. Ha proprio fatto fatica a trovarlo, eh? Sì, è uno. però è molto in alcune persone, mi ci metto, è molto evidente. Tra poco, insieme al professor Comi, dopo le informazioni sul traffico, parliamo di piccoli segnali, linguaggio e piccoli segnali del movimento. Ad esempio, ci sono delle volte che la parola ci rimane intrappolata sulla punta della lingua, o piuttosto che ci manca del tutto, e per quanto riguarda quello che possiamo considerare il movimento, a volte avvertiamo un leggero tremore, quando ad esempio, non vi è mai capitato, quando appoggiamo la tazzina del caffè sul piattino, a volte diciamo ma balla un pochino, a volte a tremare la palpebra di un occhio, o ancora avvertiamo quello strano formicolio, avremo messo magari, avremo tenuto la mano o il piede troppo scomodo, o c'è qualcosa d'altro. Cuore e denari. Eccoci, siamo tornati insieme. In linea con noi abbiamo il professor Giancarlo Comi, in studio la dottoressa Letizia Leocani. Giochiamo d'anticipo perché noi ci occupiamo oggi del nostro cervello, organo di cui si occuperà la settimana mondiale con una serie di iniziative e dibattiti in tutta Italia, e noi volevamo anticiparvelo proprio perché ciascuno di voi potesse organizzarvi e, desiderandolo, partecipare a tutte queste iniziative, anche per sapere di più, perché adesso si sa molto di più del cervello, insomma anche i medici possono guardarlo, come si dice, in faccia. Ma professor Comi, torniamo ai segnali che a volte avvertiamo, temiamo che ci arrivino dal nostro cervello e tendiamo o a trascurarli oppure a preoccuparci troppo. Iniziamo dal tremore. Il tremore è un fenomeno veramente frequentissimo, tutti possiamo tremare, basti pensare al tremore da freddo, sì, o al tremore d'emozione. Quindi il tremore deve dare un segno di allarme quando è soltanto a un lato, se prende solo una parte, e quando soprattutto è presente anche in condizioni di riposo. Questo è il tremore che ci dà qualche allerta. Andiamo invece al formicolio. Noi possiamo pensare anche magari a un problema di circolazione, oppure ho la gamba addormentata, io che sto sempre con le gambe un po' attorcigliate, ogni tanto il formicolio, allora mi alzo, gli spilli, si diceva una volta, no? Si batte il piede per terra e il problema sparisce. Ma il formicolio ad un neurologo può raccontare anche tante cose. Il formicolio è un'irritazione delle fibre sensitive, cioè di quelle fibre che dalla pelle portano l'informazione al cervello, sono quelle che ci fanno sentire se un insetto ci si posa in quel punto, ad esempio, qualche volta sono fonte di molto piacevoli. Ovviamente un'irritazione può essere banale, ad esempio, come lei ha segnalato, una posizione mantenuta che ha schiacciato un nervo per un certo tempo, si risolve immediatamente, nessuna preoccupazione. Qualche volta invece può essere persistente per giorni, e allora in qualche modo indica che c'è qualcosa che non funziona tra il collegamento di quella zona in cui sentiamo il formicolio e il nostro cervello, e bisognerà fare degli accertamenti. Veniamo al modo in cui noi scriviamo. Non siamo quasi più abituati a scrivere a mano, ma la scrittura, professor Comi, se io le facessi vedere come scrivo, a lei mi direbbe innanzitutto che scrivo molto male, che non si capisce quello che scrivo, mi sgriderebbe, ma poi alla fine quali indicazioni, che cosa guarderebbe della mia scrittura? La scrittura può essere anche molto disordinata. La scrittura è un elemento di informazione per noi quando si deteriora, cioè quando la persona cambia la scrittura in modo molto importante, soprattutto se inizia a fare errori, perché chiaramente la scrittura è un elemento molto raffinato, no? Immaginiamo come abbiamo questi piccoli tratti che richiedono che il nostro cervello elabori un significato per questi tratti e li traduca in una serie di segni che abbiano un loro senso. Quindi una semplice scrittura poco organizzata può essere la caratteristica di una persona da sempre, non per niente c'è tutta una disciplina che si occupa della grafologia intesa come mezzo di esprimere la propria personalità. Per noi è importante valutare invece quando compaiono alterazioni qualitative, soprattutto che vengono sviluppate nel tempo. Anche il modo in cui camminiamo, il nostro incedere, che è un tratto distintivo di ciascuno di noi, può raccontare qualche cosa ad un neurologo, è un'ottima fonte di informazioni, è così professore? Assolutamente, ancora una volta richiede tutta una serie di connessioni dentro il nostro cervello perché si realizzi un atto apparentemente banale, ma in realtà estremamente difficile come il cammino. Noi ce ne rendiamo conto quando qualcosa funziona male, perché riuscire ad avere l'equilibrio, fare in modo che noi avanziamo nello spazio è una storia molto complessa. Il modo in cui si altera, il modo di incedere è per noi fonte di informazione sulla sede in cui c'è questa alterazione che ha determinato ciò che osserviamo. Quali sono i dettagli a cui dobbiamo prestare attenzione, ad esempio quando trasciniamo un po' i piedi? Beh, soprattutto ancora una volta sono i problemi che compaiono su un lato. Se io porto meno bene un piede rispetto all'altro, e soprattutto se questo avviene con una certa rapidità, vuol dire che i collegamenti motori tra il cervello e quel piede non funzionano bene, sono fonti di interesse per un medico. Oppure quando noi dobbiamo allargare i nostri punti d'appoggio, no? Il bambino quando acquisisce le sue prime tappe, nelle sue fasi iniziali, cammina con le gambine molto allargate, no? Sì. Perché aumenta sulla sua base d'appoggio, poi mano a mano che diventa capace le restringe questa base. Quando noi dobbiamo di nuovo riaprire questo spazio tra i due piedi per camminare, vuol dire che il nostro cervelletto non funziona più in modo adeguato. E a proposito di bambini, abbiamo il piacere di avere in linea con noi il professor Yuri Bozzi, che è ricercatore del CNR dell'Università di Trento. Buongiorno professore. Buongiorno, con cui noi parleremo tra poco proprio dei nostri bambini, perché ci occupiamo giustamente del nostro cervello, del cervello degli adulti, abbiamo paura un po' di perdere, come si dice, i colpi, ci occupiamo del cervello dei nostri genitori anziani, ma il cervello dei nostri bambini, che è una spugna, possiamo definirlo così, come possiamo nutrirlo, come possiamo allenarlo, come possiamo farlo star bene? Prima di farcelo raccontare dal professor Bozzi, vogliamo sentire Loris, che ci chiama da Milano, e Mauro da Reggio Emilia. Loris, buongiorno. Buongiorno a lei. Trasmissione interessantissima. Io volevo un po' un quesito che nasce da una ricerca che ho fatto e da esperimenti che sto facendo sull'uso del cervello nel gioco degli scacchi. Brevissima premessa: con la possibilità di utilizzare computer e di studiare su tantissimo materiale, oramai il gioco ad un certo livello è arrivato ad un altissimo equilibrio. Quindi la differenza la fa la capacità agonistica di giocare per 4-5 ore sempre le mosse migliori. Uno dei problemi che è stato evidenziato è un tipo di shock che avviene nel giocatore, che avendo accumulato un eccesso di tensione, sì, in sintesi viene mandato un segnale al cervello che c'è un eccesso di tensione sul sistema cardiovascolare, per cui il cervello effettivamente interrompe la connessione, cioè in poche parole dice al giocatore: meglio che tu la smetti di sforzarti, perché stai mettendo a rischio il tuo sistema cardiovascolare. Volevo sapere cosa ne pensava il professore e se poteva suggerire qualche tecnica per evitare questo tipo di problema. Professor Comi, intanto vuol dire che il cervello è cauto? Beh, no, il nostro cervello ha un sistema interno di misurazione della quantità di energia mentale che sta spendendo, e quindi, così come noi abbiamo dei sistemi per capire se facciamo un sforzo fisico eccessivo per proteggere i nostri muscoli, i nostri tendini, così dobbiamo anche una protezione per la nostra attività mentale. Quello che l'ascoltatore richiamava come sì, elemento è il cervello pesa anche qual è il carico di lavoro a livello cardiovascolare, e di conseguenza quando ha delle alterazioni sia del contenuto metabolico del sangue sia della entità di attività del cuore, dell'apparato cardiocircolatorio, ovviamente essendo informato può mettere in atto strategie di difesa. Qualche volta lo fa in modo conscio, qualche volta lo fa in modo inconscio. Quindi che ci possa essere una specie di riflesso di chiusura di fronte a uno sforzo che viene ritenuto eccessivo è assolutamente fisiologico, lo facciamo tutti. Quando noi diciamo basta, ho finito stasera, chiudi il libro e non se ne parla più, questo è esattamente la stessa identica cosa, e immagino che non faccia eccezione, ovviamente un compito in realtà sicuramente che richiede tantissime risorse attentive come quella del giocare bene a scacchi. È un compito che ha una grande quantità di consumo di energia, e quindi credo che il cervello giustamente si possa difendere. Non credo che non sia bene staccare il sistema, cioè se quello è il limite di quella persona è bene dare retta a quel valore di limite, altrimenti la persona passa da uno stress positivo a uno stress negativo e può avere degli eventi cardiovascolari anche negativi. Allora, prima di dare la linea al GR, tra poco il nostro GR, subito dopo, come promesso, il professor Bozzi ci darà delle indicazioni per il cervello dei nostri bambini, ma parleremo anche di ricerca, insieme al professor Comi, la ricerca sulla diagnosi precoce nelle malattie neurologiche, come il Parkinson, la malattia di Alzheimer, la sclerosi multipla, la SLA, ha fatto dei grandi passi avanti. Oggi sono disponibili numerosi dati sperimentali che permettono al medico di riconoscere in una fase preclinica i pazienti affetti da patologie neurodegenerative. Molti di noi hanno in famiglia casi di pazienti, quindi familiari affetti da malattie neurodegenerative. È il momento di chiamare per fare chiarezza, perché la familiarità quanto pesa, che cosa si può fare. È utile individuare, sapere adesso che potrei magari sviluppare l'Alzheimer fra un po' di una ventina d'anni? Cuore e denari. Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, ecco qua, siamo tornati, avevamo un appuntamento, ve lo ricordate, ma ricordatevi anche gli stimoli, i quiz che vi abbiamo proposto nel corso della trasmissione. Uno ve l'abbiamo fatto anche senza neanche anticiparvelo, 800 24 00 24, tra poco il professor Comi ci racconterà che cosa dicono le nostre risposte a questi quiz. Ma adesso è il tempo di occuparci del cervello dei nostri bambini, una vera spugna, professor Bozzi. Sì, certamente. È meraviglioso quello che i bambini sono in grado di imparare, quindi hanno il cervello effettivamente molto più in grado di imparare di quanto onestamente non abbia un adulto. E questo sappiamo dalla ricerca di base, che deriva proprio dalla struttura delle cellule del cervello del bambino, che hanno la capacità di stabilire connessioni in maniera molto molto molto più facile di quanto non avvenga in un cervello adulto. Questo è un po' il segreto, diciamo, alla base di quella che noi definiamo plasticità, cioè capacità di imparare del cervello del piccolo. Infatti, professore, le cose che impariamo da piccoli le impariamo meglio e con meno fatica, e restano di più. L'esempio meraviglioso, secondo me, che viene dalla ricerca è l'apprendimento musicale. Esistono tanti studi su questa capacità straordinaria, e questa attività straordinaria dell'uomo, che è la musica, che dimostrano quanto sia più facile imparare a suonare uno strumento da bambini piuttosto che da grandi. Io personalmente lo so anche per esperienza personale, perché mi sono messo a suonare uno strumento da grande con pessimi risultati, ma grande divertimento, però in ogni caso grande. Fa comunque bene, vero, imparare a suonare uno strumento? Fa comunque bene, però quando mi confronto con i miei figli non c'è ovviamente paragone. E dal punto di vista scientifico, cioè quello che la ricerca ci racconta, è che effettivamente chi ha imparato a suonare uno strumento da bambino ha una struttura del cervello completamente in parte diversa, perché nel cervello di chi ha imparato a suonare uno strumento da bambino le aree che regolano il movimento degli arti, che hanno imparato ad eseguire ovviamente in maniera speciale la musica, sono molto molto più sviluppate. Quindi chi ha orecchie per intendere intenda, avete bambini piccoli, iniziate a fargli studiare musica, e si arricchisce anche la loro vita, oltre che si sviluppa meglio il cervello. Professore, ma questi bambini devono imparare musica, poi l'inglese, poi sono esposti, immersi nella tecnologia, un po' dei loro genitori, un po' insomma anche i bambini adesso piccoli delle elementari hanno i videogiochi e smanettano con grande abilità. Tutte queste attività li aiutano, li affaticano? C'è un dosaggio, una posologia? Mi piacerebbe che lei ci desse un po' delle indicazioni anche su, se le ricerche hanno indagato questo aspetto, un po' dei tempi di somministrazione o dei consigli, meglio questo di quello. È molto difficile dare un consiglio. Bisogna come sempre utilizzare le tecnologie con moderazione, cioè è indubbio che l'utilizzo della tecnologia sia ormai qualcosa di ineludibile, cioè non possiamo farne a meno. Sì. Allo stesso tempo però dobbiamo utilizzarla con coscienza e moderazione. Io credo che, e questo lo dimostrano varie ricerche, l'importante sia differenziare l'utilizzo della tecnologia. Chiaramente se si sta parlando di un ragazzino che in età scolare passa ore e ore davanti a un videogame che propone sempre un certo tipo di stimoli, o davanti a una televisione che produce sempre lo stesso tipo di stimoli e lo stesso tipo di messaggi, questo sicuramente non fa bene. Su questo non c'è ormai un... Quindi bisogna, un po' come raccontano spesso gli esperti di denari, a cuore denari, da questa parola differenziare, ritorna anche negli stimoli. Abbiamo un tempo che massimo, parliamo dei bambini che frequentano dall'asilo alla quinta elementare, per permettere ai nostri bambini di giocare col videogame, oppure basta che differenzino? Personalmente direi non più di un'ora al giorno, forse anche meno. Senta, ma sul cervello se li lasciamo andare a giocare in giardino e mezzo. Bravo, e questo volevo chiederle: videogame verso gioco, quale dei due sviluppa meglio il cervello? Sicuramente il gioco in senso lato ha una capacità, una possibilità di sviluppo cerebrale maggiore, perché permette sia la parte, diciamo, l'attività riflessiva, anche il gioco solitario. Sì. Che è quella di interazione sociale, immaginiamo il gioco di squadra, quindi il gioco è il confrontarsi con i propri simili e poi riflettere da soli sul confronto con i simili, io credo che sia qualcosa di molto molto più positivo. Dopodiché che gli videogame affinino anche certe abilità, certo, cognitive e manuali, non c'è dubbio su questo, ma è l'interazione con gli altri, secondo me, il segreto di uno sviluppo complesso e felice anche. Quindi se il nostro bambino, come ha fatto Fresu, impara a suonare uno strumento musicale e poi suona in una banda, fantastico. Abbiamo unito la musica e la relazione. Professore, grazie per essere stato con noi, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata, grazie. Professore Comi, allora, ci sono gli ascoltatori che vogliono sapere che cosa è successo dei nostri quiz, che cosa gli abbiamo proposto. Abbiamo anche un ascoltatore, Gianni, dalla provincia di Vicenza, che vuole rispondere. Diamo un po' una indicazione delle risposte dei quiz e poi passiamo al tema della ricerca. Gianni, buongiorno dalla provincia di Vicenza. Buongiorno. Buongiorno. I canguri come stanno? Ah, io spero bene, visto che sono delle belle bestioline. Quanti io penso che sì, penso che i canguri che vivono qua in Italia potrebbero essere tra i 50 e i 100 almeno. Almeno. Sì, almeno. Perché è un animaletto bello e innocuo, e credo che oltre che gli zoo, i zoo safari e tutte quelle cose, diciamo, il circo, penso che ci sia anche parecchi privati. Ah, che dice, diciamo, che hanno il canguro. Bah. Sì, chi magari ha un giardino grande, un animale. Magari si mette due canguretti e lì. E invece, per quanto riguarda la distanza tra Milano e Chicago, secondo lei? Credo tra i 6.000 e i 6.500 chilometri. Senta, e poi il professor Comi ha detto anche un elenco di parole. Io purtroppo quella parte là non l'ho sentita perché ero in una zona d'ombra. Potete ripetere? È troppo facile, però poi glielo faccio. Magari è una bugia, perché gli uomini, vero, professoressa, dottoressa Leocani, mentono, ma si vede quando mentono, ma noi non possiamo vederlo. E hanno più esitazioni, le donne esitano di meno, sono più difficili da scoprire. Ma Gianni non ha esitato, ha detto, no, ero in una zona d'ombra. Professor Comi, i canguri sono tra 50 e 100 almeno, la distanza è tra 6.000 e 6.500. Che cosa ne le raccontano le risposte di Gianni? Beh, allora direi che le risposte sono, la prima è ai limiti della normalità, perché la stima corretta è, diciamo, per una forbice tra i 5 e i 50, questo è più o meno la forbice che noi accettiamo come corretta definizione, ma il senso, però, voglio dire, il senso è questo, che queste domande vogliono farci abituare a valutare se noi siamo in grado di stimare approssimativamente una certa condizione. Occorre, come dire, metterci del nostro per riuscire a fare questo tipo di valutazione. Il dire che non ce ne sono vuol dire che uno non prende in considerazione l'esistenza, appunto, di circhi, di zoo, di condizioni in cui questi tipi di animali, che non sono chiaramente del nostro territorio, possono però essere sul nostro territorio. E dall'altra parte, se una stima è eccessiva, vuol dire che uno non ha la capacità di relazionarsi in modo corretto. Fabrizio mi ha scritto 128 canguri, però è stato preciso, ma ha scritto proprio il numero, li ha contati ad uno, mentre quindi, per la distanza, professore, ancora una volta nessuno di noi ha la misura esatta. La misura esatta sarebbe 7300 chilometri, ma quello che conta è l'approssimazione, anche qua, cioè, perché uno fa un rapido calcolo mentale e può usare varie strategie, ad esempio sapendo che più o meno l'Italia è lunga 1200 chilometri può dire: ma quante volte più o meno ci sarà come distanza tra qui e gli Stati Uniti? Quindi avere l'importante è che uno mi dica 100 chilometri o 40.000 chilometri. Ecco, quindi ancora una volta questa è l'analisi delle funzioni logiche, è molto interessante, perché è una capacità che viene persa abbastanza rapidamente in alcune patologie di decadimento intellettuale, quindi insomma ha un suo valore importante. Insomma, se abbiamo azzeccato i canguri e la distanza, possiamo stare tranquilli. Quanto alle parole che il professor Comi, con nonchalance, senza puntare la nostra attenzione, ne ha detto un elenco, esattamente 4, ve ne ricordate qualcuna? 800 24 00 24. Ma professor Comi, lei ne ha dette 4. Sì. C'è chi magari se ne ricorda un paio, chi nessuna. Ci dia un po' la soluzione. Ma qui la soluzione, per fortuna, è molto più semplice, nel senso che la risposta è che anche nessuna va bene, perché noi memorizziamo ciò che per noi è importante, non memorizziamo ciò che per noi è irrilevante. La memorizzazione, la memoria ha un suo buffer, ha una sua estensione a rapidissimo cambiamento, perché tutta una serie di cose, pensiamo ad esempio a noi che camminiamo e vediamo tutta una serie di cose passarci sotto gli occhi, persone, oggetti vari, eccetera. Noi non ricorderemo nulla, certo, di tutto questo, salvo se abbiamo incrociato qualcosa che ci interessa particolarmente, perché lì agisce il meccanismo di rinforzo. Visto che io ho buttato queste quattro parole lì in mezzo a un discorso senza nessuna richiamo di attenzione particolare, insomma l'ha buttata lì, allora anche se non ne ricordiamo, questo voglio tranquillizzare tutti quelli che non si ricordano, la risposta è: non c'è nessun problema. Però la risposta giusta ce la dà forse Maurizio, non possiamo guardarla in faccia, per cui Maurizio, buongiorno. Sì, buongiorno. Lei i nomi se li ha ricordati? Tutti mi dicono dalla regia, senza scriverli però. Senza scriverli, cioè ero in auto, ecco, le posso dire anche questo. E quindi ho associato la prima parola che ha detto il professore al fatto che mi trovassi in automobile. Poi leopardo, eccetera, l'ho messo in relazione a un'altra cosa, e così anche cucina e anello. Bravo Maurizio. Voglio anche ricordare l'ordine in cui il professore le ha enunciate queste quattro parole. Qual era l'ordine? L'ordine vediamo, ha detto prima automobile, poi leopardo, e poi anello, e poi cucina. Vabbè, gli ultimi due sono invertiti, però l'ascoltatore, è interessantissimo questo, ha sottolineato come lui ha associato ogni parola a qualcosa. È proprio il principio della associazione insieme a quello della ripetizione che consente di spostare queste informazioni dalla memoria immediata a una memoria un po' più estesa. Sicuramente questi nomi verranno persi nel prossimi sei mesi, se richiederemo di nuovo ascoltatori di dirceli, non se li ricorderà, perché però sono irrilevanti poi per il futuro, non li richiamerà più e non li consoliderà. Ma è importante questo perché per capire come funzioniamo noi come memoria. Però Maurizio è stato bravo, ci ha dato anche il suggerimento delle associazioni. Voi avete ascoltato, non era un errore, non era il nostro Gianmarco Ferronato che ha mandato così un file. C'era un discorso, una frase famosa di un film, l'avete colta? 800240024, chiamateci, superate la barriera rosa, il primo ascoltatore che sarà stato attento a questa azione di disturbo ideata dal professor Comi, è lui che ci vuole far fare questi esercizi difficili, riceverà a casa un libro della libreria di Cuore Denari. Intanto, professore, andiamo invece alla ricerca. Dicevamo, soprattutto per le persone che magari hanno un familiare affetto da una malattia neurodegenerativa, il sapere e la paura di, no, avere questa sorta di predisposizione può essere davvero pesante. Che cosa ha a disposizione oggi la ricerca per riconoscere con più certezza in fase preclinica i pazienti affetti da patologie neurodegenerative? So che il tempo è il tema è ampio, il tempo è poco, ma ci dia lei qualche indicazione. Facciamo un esempio, sì. Per la malattia di Alzheimer, che per frequenza è la più importante, noi oggi possiamo diagnosticare anche in fase preclinica questa condizione perché nel liquido spinale di questi soggetti troviamo delle quantità modificate di alcune proteine che, depositandosi di più nel cervello ed essendo quindi responsabili almeno in parte di questa malattia, passano meno dentro il liquido spinale. Quindi lo possiamo vedere anche ad esempio facendo un esame tipo particolare che si chiama PET, che fa vedere già nel cervello la deposizione di questa sostanza anomala che si chiama amiloide prima che la quantità depositata sia così elevata da provocare un'alterazione rilevabile. Però professore, la domanda sorge spontanea: che cosa serve saperlo prima? Avete poi, una volta che uno lo sa, che cosa fa? Allora, è chiaro che tutto questo è semplicemente una premessa per qualcosa che tutti noi speriamo avremo in futuro, in quanto per prevenire queste malattie, per curare queste malattie è assolutamente fondamentale agire in modo estremamente precoce. Quindi tutto ciò oggi sembrerebbe un esercizio sterile, anzi addirittura con delle implicazioni negative sotto il profilo psicologico, perché è inutile rovinare la vita di una persona prima, certo. Però domani, e speriamo che questo domani sia vicinissimo, diventa veramente fondamentale. Abbiamo in linea con noi Viviana Casam, ideatrice dell'organizzazione della Settimana del Cervello e presidente dell'associazione Brain Circle Italia. Buongiorno, ciao Viviana. Buongiorno Nicoletta, ciao. Allora, Settimana Mondiale del Cervello a Milano, come in tutte le altre città, tante iniziative, incontri, dibattiti e anche qualche chicca. Qualche anticipazione? Puoi raccontarla agli ascoltatori di Cuore Denari? Sì, sabato e domenica al Teatro Franco Parenti, sabato 15 e domenica 16, abbiamo organizzato questo grande evento che si chiama Brain in Italy, i cervelli che non fuggono, e l'abbiamo organizzato con due obiettivi. Il primo è di valorizzare la ricerca italiana, perché siamo stufi di sentire che tutti i cervelli se ne vanno all'estero. Invece rimangono anche qua. Bravissimi e stimati internazionalmente. E la seconda è di divulgare la ricerca sul cervello, perché in Italia purtroppo la divulgazione scientifica, tranne casi ottimi come il tuo, è ancora la cenerentola un po' della conoscenza. E quindi abbiamo studiato una formula in due giorni che coniuga divertimento, spettacolo e scienza. Quindi abbiamo tre film, tre spettacoli teatrali e poi dei ricercatori bravissimi che parleranno di cose molto interessanti. Molto interessanti. Per esempio come far vedere i ciechi attraverso la musica. Ci sarà questo scienziato che ha sviluppato addirittura una app che è presente in anteprima mondiale per far vedere attraverso la musica. E poi abbiamo un grande spazio dedicato a tutta l'intelligenza artificiale, i robot che imparano e decidono e le implicazioni etiche di queste cose, oppure le manipolazioni del cervello attraverso quelle che si chiamano Brain Machine Interface, che ormai sono studiate in tutto il mondo e si potrà addirittura arrivare col pensiero a muovere arti artificiali, a collegarsi con un computer sia curando dei disturbi sia eventualmente implementando la conoscenza. ci sarà un altro scienziato che parlerà di come il cervello può controllare le onde gamma che possono servire a curare disturbi neurologici. E poi si parlerà di cervello e cibo, come si sceglie il cibo, che cosa piace al cervello e come il cibo lo influenza il pensiero. Oppure di cervello nello spazio. Insomma, tantissime iniziative, non solo a Milano naturalmente, programmi molto ricchi in tutte le città. Se volete saperne di più, già interessa la app che verrà presentata in anteprima che permetterà ai ciechi di vedere attraverso la musica. Si può seguire il vostro incontro via streaming, vero? Certo, e poi direi che siccome il programma è ricchissimo... Sì, devi darmi un indirizzo perché io devo andare da Daniela dalla provincia di... Sì, un indirizzo email www.brainforum.it. Si trova tutto il programma. Grazie. www.brainforum.it. Grazie a Viviana anche questo per tenerlo a mente. Daniela dalla provincia di Treviso, 10 secondi. Daniela. Volevo far sapere che la frase che è così corsa in mezzo era francamente il menefischio che pronuncia Claire Gable alla fine di Via col Vento. Non a caso una donna. Evviva! Allora evviva i cervelli delle donne, i cervelli degli uomini che non sono così differenti. Buon cervello, buon pensiero a tutti, buon weekend al professor Comi, alla dottoressa Leocani. Noi salutiamo anche Gianmarco Ferronato in regia alla parte tecnica, Marco Lombardo e Laura Vanossi. Lunedì torniamo con Deborah, entrambe, e quindi vi aspettiamo. Buon weekend da Nicoletta.